527. Arrosto morto con l'odore dell'aglio e del ramerino. Se, piacendovi questi odori, non amate che tornino a gola, non fate come coloro che steccano un pollo, un pezzo di filetto o altra carne qualunque con pezzi d'aglio e ramerino, ma regolandovi, quanto alla cucinatura, come nel caso precedente, gettate nella cazzaruola uno spicchio d'aglio intero e due ciocche di ramerino. Quando mandate l'arrosto in tavola, passate il suo sugo ristretto senza spremerlo e contornate, se credete, il pezzo della carne con patate o d'erbaggi rifatti a parte. In questo caso, piacendovi, potete anche aggraziare la carne con pochissimo sugo di pomodoro conserva. Il cosciotto d'agnello viene assai bene in questa maniera, cotto tra due fuochi.